Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. È in Sargante il traghettatore, siamo oggi sabato 7 maggio, cominciamo con una notizia da Pesaro. Pesaro c'è il Fraternal Meeting che è in corso fino a domani ed è un modo anche brillante di affrontare i temi della multirazzialità: musica, danza, moda, filmati, dibattiti. Il progetto è di Progetto Nuova Civiltà e ha proprio come obiettivo quello di favorire l'incontro tra le diverse etnie, le culture e le religioni attraverso la musica, la danza e anche filmati e incontri con antropologi, sociologi e teologi. C'è un corso particolarmente importante che va sull'onda, come dire, di un bisogno ormai sempre più forte che c'è nella società, quello dell'assistenza agli anziani. Assistenza agli anziani che non è semplicemente soltanto stare accanto a loro, ma ormai presuppone competenze varie su vari aspetti. Ecco perché ci piace chiedere a Luca Foresti, che è amministratore delegato del Centro Medico Sant'Agostino di Milano, come sono strutturati i corsi del suo centro. Innanzitutto buongiorno a tutti quanti, a lei e ai suoi ascoltatori. Il centro che dirigo è un centro che offre una serie di servizi in ambito medico e ultimamente abbiamo colto da parte del territorio in cui viviamo il bisogno delle famiglie per aiutarli a formare le persone che seguono i loro genitori, i loro nonni, le persone anziane che vivono nelle loro case. Per questo abbiamo messo insieme un corso che viene tenuto presso il nostro centro a Milano, in Piazza Sant'Agostino 1, in cui in 6 giornate mettiamo a confronto le persone che vengono con i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri fisioterapisti, i nostri psicologi e cerchiamo di aiutare le persone appunto che devono gestire persone anziane con problemi di salute a farlo con un livello di professionalità e di preparazione adeguato. Questo garantisce innanzitutto una professionalizzazione di persone che a volte hanno problemi ad avere certe conoscenze, ma soprattutto garantisce alle famiglie che dopo un corso del genere i loro cari verranno seguiti meglio. Abbiamo fatto un primo corso in collaborazione con un'associazione del territorio che è andato molto bene. Le persone sono rimaste soddisfatte di quello che hanno imparato, per cui abbiamo pensato bene che questa esigenza è un'esigenza diffusa su numeri più elevati e quindi l'abbiamo reso un corso standard a cui le persone si possono iscrivere quando desiderano presso il nostro centro. Fra le varie angolature di visuale di questo corso c'è anche quello psicologico, perché certamente l'approccio psicologico è chiave quando si vuole aiutare realmente un anziano, è così? Chiaramente, noi abbiamo nel nostro centro 23 psicoterapeuti e abbiamo tutta un'area di psicoterapia importante e l'approccio è proprio quello di vedere la persona umana da tutti i punti di vista, non solo i problemi fisici ma anche quelli appunto psicologici. I nostri professionisti durante il corso affrontano il contesto nel quale le persone anziane a casa vivono e nel quale la famiglia deve interagire appunto con delle persone che li aiutano a gestire i loro cari, ed è un contesto complesso che va affrontato, discusso. Spesso queste persone sono straniere, tra l'altro, quindi vengono anche da culture diverse dalla nostra e allora la questione psicologica si fa ancora più profonda, ancora più problematica e ci vuole un supporto maggiore. Bene, la lasciamo, la ringraziamo, solo dia un indirizzo internet su cui andare per avere informazioni. www.cmsantagostino.it. Un'ultima annotazione prima di chiudere questa puntata: i ragazzi dai 14 ai 17 anni che fanno volontariato sono aumentati dell'1% dal 1999 al 2010, quelli fra 18 e 19 dall'8% a quasi il 12%. È una ricerca del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato che ci piace sottolineare perché è decisamente un bel segno. È tutto per oggi, vi ricordo ferribotti@radio24.it per segnalare le vostre iniziative, che questa puntata è la puntata del weekend che va in onda alle 6.50 e alle 13.55. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Mauro De Angeli in regia.